This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of leather on willow, has been added a new noise. What were the skies like when you were young? They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear. There were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire. The clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. Direttamente dai post bruciatori di un aviogetto che passa sopra le nostre teste. Beh, d'altronde l'aeroporto di Borgo Panigale non è poi così distante, molti aerei passano sopra le nostre teste quotidianamente. Vi diamo il benvenuti a This Is Not an Exit, a Radio Città del Capo in diretta. Sono le 21:15 minuti primi, siamo un po' in ritardo, ahimè. Benvenuto dottor Scarpa, benvenuto dottor Corrias. Ciao a tutti, anche a lei dottor dottor, ingegner, ragionier, geometra, babbe. E chi più ne ha più ne metta. Troppi abbiamo perso la bussola sulle... Troppi. Allora, già che diamo i numeri, diamo anche quelli della radio. 348-7649-289. Ripeto, 348-76-49-289. Casomai voleste mandarci un WhatsApp, un SMS, adesso... Però fa partire il programmino, non preoccupatevi, ce la possiamo fare. Ma quindi, vabbè, ci sentiamo più elettrici o più elettronici oggi? Questa sera ci sentiamo ambientali. Questa qui è una puntata fondamentale perché con The Orb, di loro parliamo questa sera, nasce pubblicamente, fondamentalmente per la critica, nasce la musica ambient inglese degli anni 90. They shall also make gardens and eat the fruit of them. And I will plant them upon their land, which I have given them, your God. And the mountain shall drop sweet wine, and the hill shall melt. And the mountain shall drop sweet wine, and the hill shall melt. And the mountain shall drop sweet wine, and the hill shall melt. And they shall build the waste cities and live in them. And they shall plant vineyards and drink the wine of them and live in them. They shall plant vineyards and drink the wine of them. tutto il suo azerbaigiano comunista partia. Azerbaidžaniečiai, jų populiarusis frontas, kuris būtų tolygus mūsų sąjūdžiui. Jie pasirašė lyg ir sutartį su Azerbaidžano komunistų partija. They shall plant vineyards and drink the wine of them. Beh, diciamo che siamo verso la fine degli anni 80, più o meno il 1988, quindi calza pennello con il nostro solito periodo di osservazione, di esplorazione musicale. Ebbene, in questa fine del 1988, due figuri che avevano fatto un po' di tutto, come il dottor Alex Patterson, che faceva da roadie, da scout per una etichetta discografica specializzata in musica d'avanguardia, un'etichetta che aveva pubblicato anche i lavori di Brian Eno, per esempio. E poi era finito a fare il DJ in una discoteca londinese, faceva praticamente quello che adesso si chiama chill out o sala di decompressione, cose così. Ma era una cosa molto molto molto molto nuova, perché negli anni 80 il DJ era sempre stato quello che faceva muovere le testoline o qualcos'altro. Ebbene, pensare a una sala di decompressione in un club privé era una cosa abbastanza nuova. Nuova a tal punto che fu raggiunto da un altro compagno di avventure, uno che invece era più sulla produzione, come diciamo, terroristica, era uno dei due KLF. KLF era un gruppo che facevano musica elettronica campionando in maniera pirata pezzi anche molto molto famosi, e grazie a quelli riuscivano a entrare in classifica portando avanti un discorso di liberazione del copyright, prendendosi cause, bruciando milioni di sterline, insomma un gruppo di cui magari riparleremo, molto importanti. Ebbene, uno dei due lo raggiunse e cominciarono a fare musica insieme. Si chiamava Jimmy Cauty. Non erano degli hippie, per niente, erano dei rodi, magari avevano un background che era magari più punk che altro. Ma la cosa più assurda è che, come poi dichiara uno di loro, è che poi l'idea di fare musica in quel modo lì venne anni prima, perché ascoltando Music for Films di Brian Eno sotto l'effetto di LSD. Beh, tanta carne al fuoco. Abbiamo parlato di discoteche, abbiamo parlato di ambient, abbiamo parlato di hippie. Come può succedere tutto ciò, che tutto questo si fonda? Beh, succede perché, appunto, abbiamo detto, i due orb si cominciano mixando in una discoteca Leven di Londra nel 1989 a lunedì sera, ma non mixano nella dance floor principale, mixano nel privé, quello che era riservato ai very important people. Ma questi very important people in questa discoteca il lunedì sera, nella serata di Paul Oakenfold, che è un DJ house molto famoso, lo è stato per anni, lo è ancora, non si trovavano le solite cose più rallentate, un volume più basso che avrebbero potuto sentire nella pista principale. No, vedevano questi due soggetti con tre macchine a nastro, Revox più o meno, una piastra cassette, qualche lettore CD, un mixer da studio normalissimo, 12 tracce, che creavano lì per lì le basi ritmiche, le melodie. Poi casca anche che un tal Steve Hillage, che magari voi non conoscete, ma Steve Hillage era il secondo chitarrista dei Gong, quindi uno dei gruppi freak prog di Canterbury più famosi, anche se non stavano in Francia, ma questo è un altro discorso, che era sul pezzo ormai da 15 anni o anche più. Era un musicista che poi si era dato alle colonne sonore, alla produzione rock più in generale, ed era stato invitato in una serata al Heaven perché l'ingegnere che aveva progettato l'impianto, ovviamente lo conosceva, l'aveva invitato, e lui entra e sente mixare un pezzo suo fatto di musica psichedelica fatta per un raduno di quelli Rainbow, cioè quel gruppo di fricchettoni che chiamano adesso, comunque gli hippie New Age che avevano creato questo gruppo Rainbow, ci sono anche qua a Bologna, e lui aveva composto questa musica per uno di questi raduni Rainbow, ma si parla degli anni 80. Eh sì, perché la cultura hippie c'è poco da fare, dal massimo degli anni dei 60 è andata un po' a declinare in Inghilterra come negli Stati Uniti, e lui si trovò preso molto bene questa cosa e cominciò a collaborare addirittura con gli Orb. Hanno sempre negato di fare musica New Age. Thank you. like this all my life. Thank you. passavamo le domeniche facendo dei loop di campionature da cose come gli 808 State o da Sueño Latino, che era un disco tra virgolette, questo sto parlando, non sta parlando Alex Patterson, è un disco fatto dalla DFC, cioè erano dei produttori italianissimi, anzi erano di Bologna, tal Ricky Persi, Claudio Collino e Andrea Gemolotto. Casomai fossero in ascolto, sono vivamente pregati di farsi vivi allo 051 24 19 10. Sappiate che di Orb, tra le primissime cose pubblicate, fu un remix di Sueño Latino. Sueño Latino che a sua volta remixava un pezzo veramente di space rock tedesco degli anni 70, perché era un pezzo fatto da Manuel Gottsching e pubblicato da Klaus Schulz, ovvero sia due dei massimi musicisti tedeschi degli anni 70, erano entrambi negli Ashra Tembro, poi ebbero carriere soliste molto importanti, quindi figuratevi voi, ma poi divenne qualcos'altro. Il fatto che per un musicista di estrazione punk, gamelan, campane tibetane, suoni eterei erano verboten, proibiti, quindi figuratevi. Anche per Alex Patterson, infatti, erano sempre negati di fare New Age, ma usavano quello che poi era diventato New Age, lo utilizzavano anche loro, lo ripreso dalla spazzatura, da dove era stato buttato con il punk, anche perché c'è poco da fare. Quando vuoi fare qualcosa di nuovo, devi andare controcorrente. Ormai il punk erano passati 10 anni e più, era diventato qualcosa di mainstream, e loro, per inventarsi qualcosa di nuovo, pensarono bene involontariamente di pescare dal cosmic rock dei raduni hippie degli anni 60, dei 70-60. Thank you. накапливать напряжение в десятки и сотни вольт. E rieccoci qua, è sempre Radio Città del Capo, ovviamente This is not an exit, e oggi puntata abbastanza anomala, se vogliamo, direi quasi soporifera, no ragazzi? Beh Nicola, noi speriamo soltanto che di non far addormentare i nostri ascoltatori, che già hanno tanta pazienza, quindi... Speriamo di non addormentarci anche noi. Ecco, pericolo molto dietro l'anno. Ci troviamo domani qui con la rassegna stampa, che ci svegliano. No. Comunque, parliamo insomma di questa scena musicale inglese, no? Perché comunque loro sono prettamente inglesi, erano rodi addirittura dei Killing Joke, e tra l'altro comunque paragonati ai Pink Floyd addirittura, diciamo che qualcuno paragonava insomma l'Acid House incontra la cosmologia dei Pink Floyd. Nella copertina tra l'altro c'è anche la stessa di Pink Floyd con la centrale elettrica sulle rive del Tamigi. Nicola, cosa vogliamo aggiungere sulla scena inglese del periodo elettronica? Ma non lo so, gli Orb sono stati tra i fondamentali, se proprio dobbiamo dire tutto, praticamente da lì si è aperta una nuova un nuovo filone musicale, eccetera. Ovviamente interessante le varie collaborazioni che poi si sono alternate col passare degli anni, quindi ogni disco comunque aveva delle varie partecipazioni di artisti più o meno famosi e soprattutto appartenenti a generi a distanti anni luce. Se non sbaglio c'è stata una collaborazione addirittura con il chitarrista dei Pink Floyd, in cui ha partecipato a un disco. E quindi sta cosa qua era comunque una continua evoluzione che non trovava mai un arresto, e questo ha sempre avuto una ottima importanza. Ovviamente anche ora, cioè, i dischi sono innumerevoli, se non sbaglio l'ultimo risale al 2013, e anche questo frutto di una collaborazione abbastanza interessante con gli Scratch Perry. Altro da quindi dire... parliamo produttore di musica reggae, che insomma può sembrare diametralmente opposto il genere, però il buono insomma degli artisti che comunque si incontrano e riescono a trovare un accordo musicale, no? Anche con generi abbastanza diversi, insomma. C'è qualcuno in ascolto? No, dai, questo qui era il pezzo più movimentato e danzareccio di tutti questo album degli Orb. Lo ricordiamo a questo punto, diciamo, si chiama The Orb's Adventures Beyond the Ultra World. Un doppio album, non è male già esordire nel 91 con un doppio album, ma al momento era buono, i tempi erano maturi per queste nuove sonorità che ebbero un ottimo successo in Inghilterra e poi influenzarono tantissimo anche altri musicisti in giro per Europa e anche negli Stati Uniti. Beh, poi iniziamo a parlare anche, forse un po' più avanti, esplode la scena rave, quindi davvero l'Inghilterra si trova al centro del mondo per quanto riguarda una certa tematica, quella dei Travellers e quant'altro. E forse gli Orb non facevano parte di quella scena rave, però vabbè, e quella che comunque ha ottenuto più successo sicuramente a livello planetario è stata la scena rave, anche se comunque ha lasciato un po' di strascichi in molti partecipanti a quei rave, perché insomma l'uso a volte spropositato di sostanze psicotrope ha portato delle tragedie. Ma gli Orb sicuramente non facevano parte di questa scena, quindi quantomeno si sono salvati la pelle. Sono sì, ancora in giro, infatti. Infatti sta cosa è abbastanza interessante. Fondamentalmente penso che, non so se volontariamente o meno, hanno comunque contribuito al discorso musicale, che effettivamente hanno citato chiaramente delle basi imprescindibili, dove poi sono partiti tutti i vari sottogeneri legati a questo tipo di sonorità, mi sembra. Poi ovviamente loro sono abbastanza più soft del solito, molto musica tranquilla e da luce soffusa, ecco. E così all'inizio degli anni 90 l'astronave guidata da Alex Paterson decollò alla volta dell'Ultra War. E fu come se le energie accumulate in 10 anni di sperimentazione si fossero finalmente concretizzate in qualcosa di veramente incisivo. Una nuova formula, subito ribattezzata Ambient House, capace di riaprire le orecchie al grande popolo rock ai suoni puramente elettronici. Cronaca di un viaggio a corrente alternata tra sfere di luce e chill out room. parte parlare di generi, sottogeneri, influenze, la cosa bella dell'ambient probabilmente era la cosa più riuscita. Il loro successo maggiore era stato quello di riuscire a ricreare passaggi sonori. Era come se si fossero agganciati alle orbite dei raver che durante la notte, le tre di notte, le due di notte, giravano intorno, avete presente il ring che gira attorno, non mi ricordo come si chiama, l'M1, la Motorway 1, quella che gira intorno a Londra, incessantemente sintonizzandosi sull'FM, perché per cercare i luoghi dove si tenevano i rave party, dovevi sintonizzarti sulle radio pirate, Kiss FM per dirne una, e cercare di decifrare i messaggi che i DJ tra un brano e l'altro masticavano, biascicavano, e cercare di orizzontarti tra intorno a Londra, e la M1 è molto grande, non so, sarà 50 km, non ho idea, girando intorno a Londra, poi girando verso la campagna, verso l'interno dell'Inghilterra, verso la costa, e per poi approdare finalmente al luogo. E questi suoni loro riuscirono a convogliarli per primi dentro un club. Non si faceva dai tempi degli hippie, appunto, che nei club facevano serate con musica folk, però folk psichedelica. Loro riuscirono a creare questi ambienti come anche con i suoni che poi appunto riceveva dalla radio FM, con i suoni degli uccelli, poi passando da una radio all'altra per pescare musica classica, come abbiamo sentito. Questo è appunto evocare qualcosa, non è proprio come uno stile come poteva essere stato il punk nel 77. E da lì cloni a non finire. Bye bye bye, perché sono le 22:27 minuti primi, quindi direi che siamo ai saluti, tra un po' ci sarà il giornale radio, ci sentiamo giovedì prossimo con un'altra puntata di This Is Not An Exit. Una cosina molto importante, una comunicazione di servizio, probabilmente il 1° giugno saremo in trasferta. Addirittura? Ebbene sì, This Is Not An Exit farà una diretta dall'XM di Bologna per una serata concerto, e chi più ne ha più ne metta, ma si vedrà, ne parleremo con calma più in là. No, allora accorrete numerosi, ex mercato 24, via Fioravanti, mercoledì 1° giugno. Risposta esatta! Buonanotte! Buonanotte a tutti, ci saremo noi.